cos'è quest'estate di Deborah Rosciani. Studentessa universitaria, triste e solitaria, nella tua stanzetta umida. Ripassi bene la lezione di filosofia e la mattina sei giochina sulla scrivania. Allora, io ormai ci ho preso gusto e Mauro Meazza lo voglio sempre qua con me. Buongiorno Mauro, ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno Deborah, ma sono lusingato. Guarda, poi oggi voglio dire agli ascoltatori: indossi uno splendido abito a fiori. Così estivo. Gli ultimi scampoli estivi li celebriamo in questa maniera. Nel weekend arriva la pioggia e qua è finito. E per tutti quelli che si lamentano per le temperature tropicali di questi giorni, vabbè, si lamentano a ragione quelli del Texas e della Louisiana. Ma a proposito di Stati Uniti, a proposito di università, ma lo sai che questa settimana due First Daughters inizieranno l'università? Ma dai, e chi sono? Sono la figlia più grande del presidente americano in carica, Tiffany Trump, che comincia la specializzazione in giurisprudenza alla Georgetown University di Washington, dopo la laurea alla University of Pennsylvania. E poi Malia Obama, che invece sarà matricola ad Harvard dopo essersi presa un anno sabbatico. Beh, lei se lo può permettere. Beh, certo, di... ma faceva conferenze nell'anno sabbatico, no? Non sì, credo. Esatto. Magari le faceva, ma sicuramente non prendeva l'onorario del papà. Detto ma secondo questo... me sarà un problema per i docenti di queste studentesse, perché tu immagina poi quando dovranno fare gli esami, se li fanno, perché adesso ne parliamo in Italia, ci sono un po' di problemi con i docenti universitari. No, ma là se vanno in sciopero magari arriva il papà e dice adesso vi invado l'università e rimettetevi subito in riga. Potrebbe a rifare gli esami. Potrebbe anche capitare così. Allora, lo hanno ribattezzato, probabilmente lo ha fatto proprio Marzio Bartoloni sul Sole 24 Ore ieri, lo sciopero mai visto. Perché pur in presenza di presupposti che possono essere giudicati anche condivisibili sull'agitazione, la forma, del tutto pacifica, si intende, è assolutamente inedita. Parliamo dello stato di agitazione dei professori universitari che rivendicano gli scatti di stipendio bloccati dalle 2011. E allora, come incrociano le braccia? Non consentiranno agli studenti di sostenere gli esami per la sessione d'autunno. Al momento 5.444 professori e ricercatori di 79 università da tutta Italia hanno aderito a questa forma di protesta. Rappresentano circa il 10% di tutto il corpo docente dei nostri atenei, ma i numeri potrebbero crescere, magari qualcun altro aderirà prossimamente appunto a questa forma di agitazione. E quindi questi professori hanno deciso che si asterranno dallo svolgimento degli esami della sessione autunnale fra il 28 agosto e il 31 ottobre 2017, naturalmente di quest'anno. Non era mai accaduto, ma ci sembra una prima volta per tutte. Sì, tra l'altro vorrei precisare, sì, come leggiamo oggi anche sul Sole 24 Ore, la forma di protesta, per quanto inconsueta, è stata giudicata legittima dall'autorità garante, che ha detto va bene purché a questo primo appello, che ovviamente non si potrà tenere, sia previsto poi un secondo appello, siano previsti altri appelli, e però è legittimo. Sui numeri dell'adesione, che appunto si dovranno poi verificare a conclusione del periodo, quindi se l'agitazione proseguirà fino al 31 ottobre, il numero appunto è di questo più o meno 10% dei docenti. Vedremo se ne aderiranno altri, secondo i promotori naturalmente sì, e lo scopriremo solo vivendo, verrebbe da dire. Lo scopriremo stamattina, direi, perché abbiamo tra l'altro un esponente del comitato promotore, la vogliamo salutare già subito. Se ritieni. Buongiorno a Carmela Cappelli, ricercatrice di statistica all'Università degli Studi di Napoli Federico II, buongiorno. Buongiorno a voi. Perché ci sono appunto, come dicevamo prima, docenti universitari e ricercatori in questo comitato che ha pensato a questa forma appunto di protesta. Abbiamo poi anche gli studenti, questa mattina vedremo di capire se si ritengono danneggiati da questa situazione, se condividono le motivazioni appunto che attengono all'agitazione dei docenti universitari e come reagiranno rispetto allo stop a questa partecipazione appunto agli appelli, che come dicevi tu giustamente, il garante dello sciopero ha detto però dobbiamo garantire il servizio. Esatto, sì. E più o meno appunto verrà garantito. Vogliamo sentire subito appunto le ragioni dell'agitazione. Carmela Cappelli, ce lo vuole ribadire lei? Voi peraltro avete preso carta e penna, personal computer per la verità, avete inviato una lunga lettera con tutte le ragioni della contestazione alla ministra dell'istruzione Valeria Fedeli, che ricordo tra un po' sarà di nuovo con noi dopo averci già aiutato ieri ad orientarci in materia di vaccini. E oltre alla Fedeli avete scritto anche ai colleghi dell'economia e funzione pubblica, in cui chiedete appunto che gli scatti di stipendio bloccati vengano sbloccati. Allora però mi pare di capire io vorrei chiarire innanzitutto che questo sciopero interviene dopo quasi 3 anni di azioni talmente blande, guardi che si fa fatica a definirle lotte. Abbiamo scritto lettere, abbiamo promosso manifestazioni e rettorati, abbiamo cercato di boicottare la procedura ministeriale di valutazione della qualità della ricerca. Tutte azioni che non avevano alcun riflesso sugli studenti, che a noi stanno a cuore, ma veramente molto a cuore. Ci siamo recati 3 volte a Roma, la prima a pochi giorni dal referendum costituzionale presso la Presidenza del Consiglio, poi il governo è caduto e per garbo istituzionale non abbiamo ritenuto di assalire il ministro appena insediato con uno sciopero che, si badi bene, era stato per così dire promesso al governo Renzi per febbraio. Per contro abbiamo sollecitato dei contratti. Siamo andati altre volte a Roma, altre 2 volte al MIUR, quindi al Ministero, la prima a fine marzo e poi a giugno, quando siamo stati convocati. A quel punto, essendo stati convocati, come dire, avevamo l'aspettativa che fossimo stati convocati perché ci sarebbe stato prospettata qualche soluzione, proposto qualcosa, e così non è stato. Tuttavia noi non ci siamo alzati da quel tavolo indignati, cosa che avremmo potuto ben fare, ma abbiamo prospettato noi al rappresentante del Ministero 3 possibili soluzioni che corrispondono a diversi gradi di impegno economico da parte del Governo, e c'era stato assicurato che il Ministro avrebbe risposto entro 48 ore. Dopodiché questi signori che ci avevano ricevuto sono spariti, ripeto spariti, non abbiamo avuto più alcuna notizia. A quel punto, passati 3 anni, vista la vicenda e la sparizione, non ci è rimasto che procedere ovviamente con lo sciopero, come avevamo dichiarato, come avevamo annunciato, perché a quel punto ne va di mezzo la nostra credibilità personale e quindi ancora una volta la dignità, il nostro il Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria, noi riteniamo che ci venga negata, e con questo sciopero la riprendiamo e la rivendichiamo anche con un certo orgoglio. Dottoressa, sì, Cappelli, no, volevo dirti a Mauro, tra l'altro, ripercorriamo un po' anche le motivazioni per cui siamo arrivati a questa contestazione, a prescindere dai professori universitari, perché per la pubblica amministrazione tutti i contratti e gli scatti salariali si sono sbloccati. Perché solo questa categoria è rimasta fuori? È perché questa parte non viene interessata, ma volevo chiedere appunto conferma alla dottoressa Cappelli, alla professoressa Cappelli, dalla cosiddetta riforma Madia della pubblica amministrazione e dal conseguente sblocco dei contratti, per il quale peraltro si deve ancora trattare, ci saranno, non sarà semplicissimo trovare poi tutti gli importi promessi. Ma qual è la vostra personale situazione, dottore, professoressa Cappelli? Allora, noi abbiamo subito il blocco delle retribuzioni disposto a fine 2010, a partire dalla fine del 2010, quindi dal 1 gennaio 2011, come tutte le categorie del pubblico impiego, blocco che era stato disposto e previsto per un triennio 2011, 12 e 13. Allora, innanzitutto da questo blocco è bene che si sappia, la magistratura si è sfilata immediatamente con un ricorso alla Corte Costituzionale, che ha dichiarato che nel loro caso il blocco era illegittimo perché loro sono magistrati e devono guadagnare tanto, perché se no sono corruttibili. Ai magistrati dello Stato è stata assimilata l'avvocatura dello Stato. A fine 2013 sono stati sbloccati i diplomatici che, come è noto, se la passano male e quindi hanno avuto gli adeguamenti stipendiali corrispondenti alle cariche che avevano assunto nel periodo di blocco. Un dopo pelino di governo, ironia nel commento. Colgo, cogliamo del sarcasmo. Esatto. Che non guasta, notoriamente se la passano male. E nel 2000 il governo Letta ha prorogato di un anno il blocco, quindi stiamo parlando 2011, 12, 13 e 14. Dopodiché tutte le altre categorie sono state sbloccate a partire dal 1 gennaio 2015 e per noi invece il blocco è stato prorogato di un ulteriore anno, quindi anche il 2016. Quindi in realtà noi in questo momento, con questo sciopero e con tutte le sollecitazioni precedenti, non stiamo chiedendo lo sblocco, perché lo sblocco c'è stato, stiamo chiedendo di sanare questa discriminazione che ci vede bloccati per un ulteriore anno, quindi per il 2016 abbiamo subito il blocco, ma soprattutto una questione molto più delicata, che è quella del riconoscimento giuridico del periodo di blocco. perché noi non abbiamo avuto il riconoscimento giuridico del periodo di blocco. Ma quindi questo non significa, mi scusi, non significa gli arretrati, ma ad esempio quanto vale per la pensione, potremmo dire. Esattamente. L'aspetto figurativo. Gli arretrati non li vuole nessuno, perché gli arretrati erano quello che noi abbiamo versato come servitori dello Stato, perché noi, come tutti gli altri docenti di ogni ordine e grado, a partire dalle scuole dell'infanzia e degli asili nido, siamo dei servitori dello Stato. Abbiamo dato il nostro contributo, ma in assenza del riconoscimento giuridico non si tratta più di avere contribuito per una finestra temporale più o meno lunga al risanamento di questi conti, ma si tratta di una perdita che si protrae per tutta la vita. Io sono una ricercatrice con 15 anni di servizio, di cui 5 di blocco, e siccome sono uno statistico, quindi i numeri li so maneggiare, i conti li so fare, con colleghi altrettanto bravi della Federico II, ho fatto un calcolo sulla mia vita professionale, in assenza di avanzamenti di carriera, che da noi non sono automatici, perché devi fare dei concorsi da noi per passare di grado, la perdita sarà di 112.000 euro sui rimanenti 20 anni di lavoro, e con i risvolti sul TFR e sulla pensione, si tratta di un mutuo che io e tutti gli altri colleghi nelle nostre mie condizioni estingueremo con la morte. Quindi non è più un contributo dato al risanamento dei conti dello Stato, è una perdita permanente. No, quindi abbiamo anche accontentato quegli ascoltatori che avevano la curiosità di sapere, di avere la quantificazione economica del danno subito appunto dai docenti universitari in questo frangente. Ma guarda, io non ho nessun problema se gli ascoltatori sono curiosi su quanto guadagna il professore universitario, perché vengono date delle cifre che, insomma, se non fossero numeri superiori al 90, si potrebbero giocare tranquillamente all'otto, per così dire. Magari si vince anche un bel terno secco. Ecco. Io non ho problemi a dichiarare anche quanto guadagno. Ma non è questo. Diciamo che più o meno ieri c'era su qualche giornale questa cifra. Stiamo sui 1.800 euro netti per un ricercatore, se ce lo conferma la stessa professoressa Cappelli. Allora, io dopo 8 anni di servizio, quando il blocco è stato disposto, guadagnavo 1.900 setta all'ultima busta paga. Ovviamente variazioni di 10 euro ci possono essere, 20 euro. 1.967 euro. Ecco, una delle polemiche... A novembre 2016, sì? 1.968, cioè per 6 anni la mia busta paga non si è mai mossa, mai. Sì, ma una delle polemiche è che in realtà però l'orario, l'impegno dei ricercatori o dei professori sia inferiore in termini di quantità oraria. Vogliamo dire due parole anche su questo? Allora... Poi ci mettiamo insieme anche il commento di un altro professore della statale che ha aderito alla vostra contestazione. Guardi, questa è una delle cose che io sento dire più spesso. Allora, mi dispiace che non possiamo far intervenire mio figlio che ha 11 anni, che vi direbbe che mia madre lavora sempre. Mamma, tu sei sempre davanti al computer. Ora, io non ho un orario di lavoro, non devo timbrare un cartellino. Quindi sono... talvolta più spesso a casa di quanto non lo è un altro lavoratore, ma sono a casa e lavoro. Lavoro il sabato, lavoro la domenica, lavoravo il 4 agosto e facevo elaborazioni per un paper. Lavorerò oggi perché devo mandare un lavoro ad un convegno, anche se sono ancora, per così dire, in ferie. Lavoravo il 18 agosto e correggevo una tesi di laurea per un mio laureando. Quindi questo rilievo che viene fatto è un rilievo sciocco, perché in realtà noi, non avendo un orario di lavoro, non abbiamo un inizio, ma non abbiamo neanche una fine. Sì, questo è un pregiudizio legato molto spesso a tutto il mondo degli insegnanti, appunto, che si ritiene lavorino solamente nell'arco dell'orario della scuola, della cattedra, dopodiché a casa non si faccia nulla. Cioè, perché il mio lavoro, oltre all'insegnamento, il mio lavoro è fare ricerca, e la ricerca, guardi, non ha orari. Allora, lavora di sabato, si lavora. Dottoressa Cappelli, abbiamo capito perfettamente. La devo arginare solo perché ho altri ospiti in linea, ma la prego di rimanere ancora collegata con noi. Tra questi c'è il professor Piero Graglia, docente di storia delle relazioni internazionali ed esponente anche di Rete 29 Aprile, un'organizzazione appunto che vorrà probabilmente dire la sua su questa agitazione. Il professor Graglia ha aderito, fa parte di quel 10% di professori appunto che hanno aderito alla contestazione, con l'idea però di ampliare ancora la rete degli aderenti. Abbiamo con noi di nuovo il ministro Fedeli, che gentilmente ieri mattina abbiamo precettato, avevamo lasciato indietro un po' di argomenti e stamattina ci sembrava assolutamente utile, nonché opportuno, avere anche il suo contributo alla puntata di oggi. Ministro, buongiorno. Buongiorno. Di nuovo grazie. Poi dicevo prima, ho anche gli studenti, però siccome sono le 8.30 abbiamo anche dell'altro da fare. Eh sì, e allora un po' di spot, ma torniamo presto. Ma cos'è quest'estate? Tutti potranno laurearsi regolarmente nonostante l'agitazione dei professori, Mauro, no? Vogliamo farlo dire direttamente a loro. Professore Piero Graglia, docente di storia delle relazioni internazionali, e buongiorno. Stiamo spiegando appunto le ragioni della vostra protesta che anima già questo scorcio di fine estate, però ecco, non solo perché ve l'ha detto il garante dello sciopero, ma anche perché il buonsenso anima il vostro comportamento. Garantirete le sessioni di laurea e gli studenti non saranno tra virgolette danneggiati rispetto a questa forma di protesta appunto che avete individuato. Ovviamente sì. Ovviamente le sessioni di laurea sono sacre, un po' come le vacche in India, insomma, quindi non si toccano mai. E non c'è intenzione di danneggiare gli studenti, aggiungo io, anche perché molti studenti sono d'accordo con questa protesta. Mm. E penso al Movimento Link, penso anche a movimenti che si sono espressi nel passato quando noi protestavamo come Rete 29 Aprile contro la legge Gelmini, che sono stati a nostro fianco, mentre molti professori purtroppo, io all'epoca ero ricercatore, e dicevano che era una riforma dovuta, che andava bene tutto il resto, e adesso si sono rimangiati le parole, perché questo problema della retribuzione universitaria è solo la punta di un iceberg. E ci sono altre motivazioni che personalmente mi spingono ad aderire a una protesta giocata tutta sulla questione economica. Per me la questione economica ovviamente è importante, ma non è l'unica questione in ballo dal 2011. E quali sono le altre, esatto, professore? Quindi vada pure a fare l'elenco, poi lo sottoponiamo al ministro. L'elenco sarebbe lungo. Rapidamente. Prima di tutto un processo di valutazione molto discutibile fatto da un'agenzia che è l'Anvur, che non è un'agenzia terza, ma è un'agenzia di nomina governativa. Si dice che il sistema deve essere valutato, assolutamente il sistema deve essere valutato, il sistema universitario aveva bisogno di una valutazione, noi lo dicevamo nel 2010, lo diciamo anche adesso, non è cambiato nulla, però certo non un sistema così farraginoso e così fondato su una numerologia come quello messo a punto dall'Anvur. Poi c'è il sistema diciamo un po' più generale di tutto. La questione, per esempio, ultimamente l'individuazione di 180 dipartimenti eccellenti che andranno super finanziati, con un'inevitabile perdita, per esempio, per quelle che sono le università del sud. Gran parte di questi dipartimenti sono stati tutti individuati nelle università del centro e del nord. Per carità, io insegno alla statale, andrebbe benissimo tutto questo, però non bisogna dimenticare che in questo modo si aumenta il divario tra l'università, tra il sistema universitario al sud e il sistema universitario al nord. Poi un altro enorme problema che tuttora diciamo ci affligge è un po' anche il problema del diritto allo studio. E il precariato, l'utilizzo dei precari per quanto riguarda l'insegnamento. Siamo un sistema che in mancanza di turnover, in mancanza di nuove assunzioni, di nuove leve, di nuovi docenti, ricercatori a tempo determinato di tipo B che poi diventano professori associati e poi diventano professori ordinari, c'è un massiccio ricorso al precariato e questo è il nostro enorme problema. Ecco. Diminuendo il numero dei professori inevitabilmente dobbiamo contrarre l'offerta formativa, perché ci sono regole ministeriali molto ferree che stabiliscono il rapporto tra docenti e studenti, Sì, professore, tra l'altro noi stiamo da luglio ormai ospitando regolarmente, quasi tutti i giorni sul Sole 24 Ore, una serie di contributi di vostri colleghi che così reagiscono a questa provocazione. 40 anni persi, si intitola questo dibattito, proprio nella gestione dell'università, sull'ANVUR, sulla valutazione. Anche oggi sul Sole 24 Ore c'è un intervento, ma poi sul nostro sito trovate anche tutta la rassegna di questi interventi di dibattito che è andato avanti, allora, appunto da luglio. Andiamo al ministro Fedeli. Ministro Fedeli, mi pare di capire che vi chiedano di riaprire il portafoglio qua. Non solo quello, ma anche quello. Buongiorno, signor ministro. Buongiorno. Vabbè, intanto diciamo che per me non è un tema che affronto oggi. È una cosa che loro pongono, in realtà è una cosa che come ministero abbiamo già aperto in un confronto per cui. Ministro, la sentiamo molto male. Non so se è un problema perché deve forse avvicinarsi un po' di più alla cornetta. No, attaccata alla cornetta. Adesso è molto meglio, allora, perfetto. Stavo dicendo che è un tema che abbiamo già aperto nel confronto con la conferenza dei rettori, che diciamo è l'organismo che in qualche modo rappresenta l'insieme dell'università, perché anch'io penso, e stiamo lavorando a questo, che le caratteristiche dell'università italiana, che comunque sono delle buone caratteristiche in generale, vanno assolutamente innovate, allargate, qualificate, anche sull'insieme dei temi che venivano posti. Quindi non è soltanto, anche se è un punto importante, quello della retribuzione dei docenti e dei ricercatori, che è tema serio. Lo dico perché insieme a quello che riguarda i docenti, gli insegnanti del comparto scuola, anche il tema dell'università l'ho immediatamente posto. I docenti lo sanno perché quando ho presentato, diciamo, in audizione il 26 di gennaio di quest'anno le mie linee guida, cioè quindi gli impegni che mi prendevo concretamente, tutti i temi che vengono sollevati sono temi che erano presenti anche nella mia comunicazione alle Camere e su cui stiamo lavorando dall'inizio per creare tutte le giuste condizioni, esattamente per sbloccare anche il tema degli scatti, perché vale per loro come vale per l'insieme del personale dell'università e della scuola. Un blocco così lungo è un blocco che non solo, diciamo, è ingiusto in sé, ma non valorizza quello che dovrebbe essere invece una scelta, secondo me, importante del Paese, che è quello di continuare, comunque tornare ad investire seriamente su tutto il percorso formativo, quindi anche a maggior ragione sull'università. Quindi tema che ho assolutamente presente, su cui stiamo seriamente lavorando. Cosa vi aveva colpito all'inizio, 2 mesi fa? Lo dico perché l'ho già detto pubblicamente, lo voglio ridire qui oggi. La cosa che mi aveva colpito era dichiarare 2 mesi fa uno sciopero, perché un conto è una mobilitazione, un conto è usare la parola sciopero, e in qualche modo allora, adesso si è in parte attenuato anche per l'intervento del garante, dell'autority di garanzia degli scioperi, mi aveva molto colpito il fatto che la forma di lotta, quindi legittimo lo sciopero, legittima la protesta, perché assolutamente le questioni sono aperte, sono vere, sono serie, però mi aveva molto colpito il fatto che la forma di lotta fosse quella di penalizzare, almeno così appariva 2 mesi fa, gli studenti, che invece sono la funzione per cui ci sono i docenti universitari, che è esattamente quella di mettere al centro gli studenti, la qualità della didattica, la qualità della formazione. Ho visto che adesso questo tema si è, diciamo, messo in equilibrio, diritto dei docenti a questa rivendicazione con il diritto degli studenti di poter fare le loro sessioni di esame. Ecco, questo mi sembra già un punto importante. Noi andremo avanti a dialogare e a trovare le soluzioni con le rappresentanze che oggi ci sono. Tenga anche conto CRUI, che quindi, signor ministro. No, però guardi, le voglio dire una cosa, non so se a voi è nota, se è nota alle persone che sono in collegamento, ma mi auguro di sì. Io a luglio ho scritto una lettera come ministro al garante e sto ancora aspettando la risposta. Di che cosa? Perché a questo punto, essendo loro per la parte universitaria un comparto non contrattualizzato, quindi diciamo con un rapporto diretto con le scelte di legge, volevo capire in che modo, in che forma ci fossero le possibilità di non solo di esercizio del diritto di sciopero che la Costituzione garantisce, ma anche attraverso quale modalità. Vede, in tutti gli altri comparti pubblici, contrattualizzati ovviamente, c'è anche un'autoregolamentazione del diritto di sciopero, cioè il modo con cui lo si esercita. Qui volevo capire dai garanti come loro pensavano di interloquire con questo. E la seconda, siccome diciamo in qualche modo io incontro, ovviamente da un punto di vista proprio del mio modo di esercitare la funzione, incontro diversi soggetti, ma sono anche molto attenta ai criteri corretti e democratici di rappresentatività. Su questo lei, Ministro, ha sicuramente ragione, non vorrei che però adesso il dibattito si concentrasse sulla forma di protesta e poi non andasse alla sostanza. No, però la sostanza, però, se mi posso permettere, l'ho detta all'inizio, non solo la condivido, ma... Ecco. Dall'inizio ci stiamo lavorando. Ecco. E lavorarci significa tempi e modalità, perché queste risorse vanno trovate. Brava. E le sedi per trovarle sono ovviamente le fasi della sezione di bilancio. Questo lo sanno loro. Quindi, così come stiamo lavorando noi per questo. Quindi nella legge di bilancio, quindi stiamo parlando noi dovremo di assolutamente trovare le risorse, perché guardi, vale per i contratti pubblici, quindi per gli altri dipendenti della scuola, tutti, vale assolutamente anche per i docenti universitari e i ricercatori, non c'è dubbio. Quindi nella legge di bilancio, che lo ricordiamo, non tutti gli ascoltatori possono essere informati dei passaggi, si redige come disegno di legge, come proposta, entro il 15 di ottobre, quindi ci saranno queste settimane di settembre per prepararla. Importanti, certo. E poi si porta appunto alle Camere e viene votata, varata con efficacia solitamente dal 1 gennaio dell'anno successivo, viene votata, varata intorno a dicembre, alla metà di dicembre. Non è un caso che peraltro la protesta va avanti fino al 31 ottobre, perché evidentemente i professori vogliono anche... Io vorrei capire dai professori che abbiamo in collegamento se il fatto di vedere nella legge di bilancio uno stanziamento potrebbe essere sufficiente per far rientrare la protesta, ad esempio. Infatti. Cappelli. Allora, io innanzitutto devo chiarire un attimo un punto. C'è stata un'inversione logica in quello che è stato detto. Allora, lo sciopero non è stato dichiarato dalla Commissione di garanzia legittimo, perché la Commissione di garanzia ne ha rettificato le modalità. Le modalità sono state definite da noi, cioè noi ci siamo autoregolamentati, abbiamo stabilito delle modalità che non danneggiassero gli studenti e dunque la Commissione di garanzia ha dichiarato lo sciopero legittimo. Queste modalità le ricordo brevemente. Noi salteremo il primo appello della sessione autunnale, che è peraltro la sessione meno frequentata, quindi quella con il minore impatto, in un arco temporale che va dal 28 agosto al 31 ottobre. Chi ha un unico appello, come ad esempio la sottoscritta, l'11 settembre, salterà quello appello, quindi sciopererò in quel giorno e chiederò un appello straordinario da tenersi 15 giorni dopo. Quindi gli studenti non subiranno un danno, subiranno un disagio, perché se ci sono più di un appello possono, possono andare al secondo, se ce n'è uno solo sarà tenuto un appello straordinario, quindi un disagio e non un danno. E d'altronde lo sciopero, ora, se un qualche disagio non lo provoca, che sciopero certo, è? Non è uno sciopero. Vabbè. Per quanto riguarda la questione delle dichiarazioni del Ministro, anche quelle che ha appena fatto, noi in sede di incontro con la Commissione di garanzia abbiamo dato la piena disponibilità ad un ulteriore incontro per discutere di soluzioni concrete. Quindi il Ministro innanzitutto ci può convocare in ogni momento. Noi siamo ben lieti di recarci a Roma a discutere, ripeto, soluzioni concrete. C'è poi l'opzione che avete appena voi altri richiamato, che è quella della legge di stabilità, che adesso è in discussione a settembre. È evidente che se in legge di stabilità fossero inserite delle misure che diano soddisfazione, che ne so, anche solo parziale, ma diano soddisfazione alle nostre legittime rivendicazioni, lo sciopero potrebbe essere revocato. Il tema è che non lo sapranno prima di qualche settimana, comunque in ogni caso a settembre si va avanti. Lo sciopero va avanti, è iniziato il 28 e prosegue secondo le modalità che noi abbiamo stabilito e che la Commissione di garanzia ha ritenuto legittime. Io sono lieta di sentire che c'è questo sforzo, c'è questo tentativo. Vedremo che cosa sarà inserito in legge di stabilità. Sentiamo gli studenti che cosa ne pensano, Mauro. Volentieri, perché non vediamo... è che sono dei soggetti disinteressati a questo dibattito. Come ha detto, come ha detto il ministro, poi sono l'oggetto di tutti i nostri sforzi, quelli finanziari e quelli didattici, ovviamente. Antonio Lodise è presidente di Sapienza in Movimento, rappresentante degli studenti in Consiglio di Amministrazione Sapienza Università di Roma. Antonio, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie della telefonata. È collegato... Sì, dimmi. Sì, io sono il past president di Sapienza in Movimento. Da qualche mese abbiamo fatto uno. Avete rinnovato le vostre cariche, i vostri vertici. Sì. Tu sei interessato eventualmente a questo sciopero? Ti obbligherà a spostare una sessione d'esame, Antonio? Se non tu, chi tra i tuoi amici in qualche maniera risulterà, tra virgolette, danneggiato rispetto a questa forma di agitazione? Sei collegato con noi dall'inizio del programma, per cui hai sentito anche tutto il dibattito articolato tra i membri del comitato, appunto, di questa forma di agitazione, il ministro Fedeli. Insomma, che idea hai rispetto a tutto quello che sta accadendo nel vostro mondo? Ma guardi, allora, considerato che la Sapienza, università di cui io faccio parte, conta un decimo dei docenti scioperanti, quindi poco, insomma, 5.000, dei nostri sono 500 e oltre, e se ne aggiungono di continuo, lo sciopero a noi ci prende di petto, ci tocca tutti, inevitabilmente tutti quelli che conosciamo subiscono questo disagio, soprattutto poi nelle facoltà umanistiche, perché i docenti che scioperano in più ampia parte sono o delle facoltà di scienze oppure di tutte le facoltà umanistiche, quindi ci tocca inevitabilmente. Personalmente quello che penso è che se è arrivato a questo sciopero è qualcosa che non va nel sistema universitario in generale, cioè, e non è solo lo scatto salariale, ci sono tantissimi piccoli problemi, poi sono problemi enormi, non sono piccoli. Penso che lo sciopero, abbiamo detto più volte, è uno sciopero legittimo, perché il garante si è espresso, quindi non possiamo dire che lo sciopero sia giusto o sbagliato. Possiamo discutere sulle ragioni che ci sono dietro, ma gli ospiti che mi hanno preceduto lo hanno ampiamente illustrato, quindi penso che sono ragioni più che valide. Da studente mi sento di dire che per l'ennesima volta ad essere penalizzati rischiamo di essere noi, a subire dei disagi sono per l'ennesima volta gli studenti, che però hanno avuto la più grande pecca, che è quella dell'informazione, cioè dello sciopero si è parlato poco e male, a mio modesto avviso. Cioè, nel senso, noi siamo state una delle poche associazioni nazionali, territoriali, perché noi siamo soprattutto in Sapienza, ad andare a capire di cosa si parlasse. Cioè, noi sapevamo di come lo sciopero si sarebbe svolto già a giugno, perché come diceva la dottoressa poc'anzi, le loro modalità le hanno espresse da subito, sapevamo cosa rischiavamo, speravamo di non arrivare allo sciopero. Quello che abbiamo fatto è stato, insomma, metterci in collegamento con i docenti Sapienza che scioperavano, in particolare il professor Nocifori e il professor Mussino, e con loro fare informazione su questo sciopero. Purtroppo siamo arrivati ad oggi e solo oggi si comincia a leggere sui giornali di questo sciopero. Certo. E se ne legge malissimo. Vabbè, d'altronde, Antonio, un comitato studentesco è corretto che faccia anche questo lavoro qua, non stia solamente a rappresentare, che ne so, eventuali disagi degli studenti in ogni forma della vita universitaria, ma che dia anche modo, appunto, di ai professori di dire la loro, insomma, dovete interagire anche con il corpo docente. Ma è quello che facciamo, ed è quello che sono più intelligente fare, nel senso, non si può vivere di proteste, non si può vivere di lamentele, certo. Nel senso, ripeto, lo sciopero dei docenti è una cosa legittima, bisogna fare in modo che gli studenti ne vengano danneggiati o penalizzati, certo, il meno possibile. Allora, fai sapere anche, esatto, che perché ci sono molti ascoltatori che continuano a non aver ben capito la forma con cui questo sciopero si svilupperà. Non saltano le sessioni di laurea, gli studenti che sono in procinto di laurearsi potranno conseguirla regolarmente, sono alcuni appelli che saltano, quelli ordinari, dopodiché i professori che lo faranno saltare sono subito pronti a organizzarne uno straordinario, come ci ha organizzato la dottoressa Cappelli. Esattamente. Infatti. Ultime cose da chiedere al ministro, Mauro? A dire la verità, signor ministro, lei ha una, come dire, un rientro dalle vacanze particolarmente intenso. Già ieri ne abbiamo avuto modo. Forse non mi sembra normale. Sì, ho visto, tra l'altro, sui vaccini siete intervenuti con delle circolari a Ferragosto, quindi insomma già... Diciamo che non è passato giorno in cui non abbiamo operato. Ecco, però ci sono diverse cose. Allora, per i professori universitari, per i ricercatori, tutta questa platea, appunto, che adesso si è imposta all'attenzione anche dei giornali, delle radio, per lo sciopero, le risorse si troveranno in legge di bilancio, o una volta si chiamava la finanziaria. Io ho ancora un'età in cui mi ricordo che la manovra di stabilità temporaneamente, esatto. Ecco, lì sappiamo che le risorse non saranno tantissime, ci sono parecchi che tirano la giacchetta del ministro Padoan. Ma guardi, il punto non è tirare la giacchetta al ministro Padoan, il punto è che il governo, ma la sua maggioranza, il Parlamento, secondo me, devono fare delle scelte di priorità. Lo dico perché, no, non solo perché sono il ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, però c'è un nesso tra mettere al centro il futuro positivo di lavoro delle giovani generazioni, come il dibattito che si è fatto in questo periodo, che dovrebbe vedere misure importanti e significative nella legge di stabilità, con i percorsi formativi e quindi con chi questi percorsi formativi qualitativamente deve garantire, cioè il personale docente. Guardi, sembra, diciamo, detto così, dovrebbe essere ovvio. Io invece penso che questo dibattito sia giusto farlo pubblicamente e farlo diventare un dibattito vero del Paese, una priorità che dobbiamo scegliere insieme. Mi è sempre capitato, e lo ripeto anche qui da voi, ci sono temi come quelli che riguardano il futuro del Paese, delle giovani generazioni, collegati quindi agli sbocchi di lavoro e alla preparazione delle ragazze e dei ragazzi, che dovrebbero riguardare l'insieme del Paese indipendentemente dalla casacca politica che ciascuno ha, ovviamente, perché sono punti fondamentali. Ecco, io penso che questo sia un tema che riguarda tutti. Ecco, signor Ministro, fare il rinnovo del contratto degli insegnanti e dei docenti e dei ricercatori universitari è tema che riguarda tutti, se lo guardiamo esattamente, non solo come elemento giusto in sé. È sempre giusto, dopo un blocco di tanti anni, rinnovare le condizioni economiche delle persone che lavorano, ma hanno anche questa finalità di rimettere in moto un investimento che è importante per gli studenti. Ecco, io farei un passo indietro nel percorso formativo, nel senso che però serviranno risorse anche per l'alternanza scuola-lavoro, che è un altro momento su cui da quest'anno si investirà ancora di più, quindi sì. I ragazzi delle quinte, se ricordo bene, saranno coinvolti in questo progetto di alternanza. Sì, non solo, nel senso che diventa diventato, diciamo, con la buona scuola un elemento strutturale. Cosa significa? Che è entrato nei percorsi formativi, è una innovazione didattica di contenuti formativi l'alternanza scuola-lavoro. Abbiamo recuperato quello che in altri paesi europei si fa da anni, cioè quello anche di acquisire competenze collegate direttamente alla conoscenza, diciamo, degli strumenti culturali e conoscitivi del mondo del lavoro. Quindi l'alternanza scuola-lavoro è veramente un tema di straordinaria importanza. Siccome entrerà negli esami di Stato per l'anno scolastico 2018-2019 e in questo anno dobbiamo estenderlo ovunque, in tutti i percorsi formativi delle superiori nell'Italia, io penso che su questo il Ministero, io penso, noi lavoreremo, perché su questo ci sia la massima attenzione, il massimo di monitoraggio, il massimo di sostegno alla qualità dei progetti e dell'esperienza formativa di alternanza scuola-lavoro. Lei sa, come sanno gli ascoltatori, che abbiamo avuto anche nel tempo episodi non positivi delle esperienze, di alcune esperienze di alternanza scuola-lavoro. Ecco, noi dobbiamo assolutamente intervenire dove non si fanno correttamente alternanza scuola-lavoro, dobbiamo qualificare i progetti. Per questo adesso a settembre partirà, dal punto di vista del Ministero, un portale specifico su alternanza scuola-lavoro, sì, dove verranno messe a conoscenza e a disponibilità le migliori progettazioni che sono già avvenute nel nostro Paese, perché abbiamo straordinarie esperienze fatti in questi anni di alternanza scuola-lavoro, ma sarà anche una piattaforma interattiva nella quale ho fatto mettere, diciamo, lo chiamiamo un bottoncino rosso, per cui anche i rappresentanti degli studenti, sì, possono segnalare direttamente questioni che non sono, diciamo, positive. Lo dico perché ovviamente la responsabilità dei programmi formativi anche di alternanza scuola-lavoro stanno in capo ai tutor delle scuole, che hanno questa responsabilità, ai dirigenti ovviamente, però ho voluto anche rafforzare l'attenzione proprio per dire: noi dobbiamo puntare tantissimo sulla qualità di questa progettazione. In più, adesso da settembre ha fatto tutti i passaggi, sì, necessari, burocratici, ci sarà anche la carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola lavoro e stiamo sottoscrivendo, costruito già a giugno e luglio, un patto con l'ANPAL, quindi con l'Agenzia per l'Agenzia le politiche, per le politiche attive del lavoro. Esatto, esatto, per avere 1000 tutor che nei territori faciliteranno il rapporto tra scuola e chi riceve l'alternanza scuola-lavoro proprio nella qualità della progettazione. Dobbiamo chiudere, Ministro, perché ci tagliano, così come ringraziamo tutti gli altri ospiti, torniamo dopo il giornale radio. Il segnale orario vi è offerto da... Il mio piatto migliore. Quello grande, per le pizze Roncadin. Roncadin, nel banco freezer. Ma cos'è quest'estate? Eccoci ritrovati in diretta. Mauro gentilmente è rimasto con me questa mattina per aiutarmi a condurre il dibattito sul prossimo approfondimento che riguarda le questioni di carattere internazionale, il vertice di Parigi delle ultime ore e poi anche il vertice che si stanno susseguendo al Viminale, tutti concentrati ovviamente sui temi dell'immigrazione e della sicurezza e non solo, ma anche per ribadire ai nostri ascoltatori che sono molto curiosi di questo aspetto che noi partiamo, non andiamo da nessuna parte, no, ma partiamo no. Lunedì prossimo con un programma insieme. Sì, perché ecco. Deborah, guarda, in realtà diciamolo, ammettiamolo, sì. Stiamo facendo delle prove di convivenza. Esattamente, in che queste è il momento, mattine. Esatto, dopodiché ti strapperò un assegno di mantenimento nel caso si consumasse un divorzio e quindi avremo altri temi di cui parlare. Guarda che sul tema la Cassazione ha rivisto i criteri, comunque avremo modo di parlarne. Te l'ho messo sul piatto d'argento, di no, la verità. Da settimana prossima alle 11 questa coppia infatti. Che sentite in queste mattine a Ma cos'è quest'estate diventerà la coppia di due di denari. Esattamente. Salutiamo Nicoletta Carbone che farà altre cose, non sparisce naturalmente, la nostra grande certo. amica, ma ci farà altre cose interessanti con le quali vi allieterà nel weekend, sempre sui temi della medicina, della salute, del benessere e dello stile di vita. Per cui siamo solo un po' rimaneggiati nel palinsesto di Radio 24, ma ci siamo naturalmente tutti. Allora, i prossimi 15 minuti di tempo li dedichiamo appunto all'altro grande dibattito che stamattina imperversa necessariamente su tutti i giornali e riguarda il vertice di Parigi che si è svolto ieri, il vertice europeo sui migranti e la Libia, un vertice tra virgolette riservato, ristretto ad un club esclusivo di paesi, quelli ovviamente in prima linea e non solo nella gestione di questo problema drammatico, che però grazie anche alle decisioni prese dall'Italia negli ultimi mesi si è un pochino ridimensionato, almeno a giudicare dai flussi arrivati sulle nostre coste appunto in questa estate, che ha un bilancio un po' più favorevole rispetto a quello che è successo nei mesi scorsi e nelle estati scorse. E ad incontrarsi ieri pomeriggio all'Eliseo appunto a Parigi, Francia, Germania, Italia, Spagna, Libia e poi questo vertice è stato allargato ai paesi confinanti di Tripoli, Niger e Chad e poi c'era anche la Mogherini a rappresentanza appunto dell'Unione Europea. Un primo passo visibile di coordinamento dopo settimane di incomprensioni, così ne ha parlato anche l'inviato delle Sole 24 Ore che è Carlo Marroni che questa mattina abbiamo reinterpellato. Carlo, intanto buongiorno e grazie di essere con noi. Buongiorno a te, buongiorno a tutti quanti. E vorrei far sentire intanto una delle varie dichiarazioni rilasciate nella conferenza stampa conclusiva di questo evento dal Premier Gentiloni. Devo dire che negli ultime settimane, negli ultimi mesi, anche nella rotta del Mediterraneo centrale abbiamo conseguito dei risultati. E devo dire però altrettanto chiaramente che questi risultati sono dei risultati iniziali che vanno consolidati, che questo impegno va europeizzato, perché non può essere l'impegno soltanto di un paese o soltanto di alcuni paesi. È importante che oggi 4 tra i principali paesi europei più la Commissione abbiano confermato questo impegno, deve diventare un impegno europeo. Carlo, tu li hai sentiti direttamente ieri i leader europei in questa conferenza stampa e allora questa mattina sul Sole 24 Ore ricordi come il vertice di Parigi in effetti non prende delle decisioni concrete né stanzia nuovi fondi, ma sicuramente si apre una fase nuova sulla gestione dell'emergenza permanente delle migrazioni. Quali sono gli elementi di novità di questo summit? Beh, anzitutto è politico. C'è una presa di coscienza del fatto che l'emergenza non poteva essere gestita come era stata gestita fino a quel momento, e cioè con diciamo così, prese di posizione fondamentalmente nazionali, e l'Italia era stata lasciata sola sostanzialmente questa voce si era sentita forte da parte di Gentiloni, questo dobbiamo dirlo, e come dicevi, i risultati sono stati conseguiti. Gentiloni non ha usato toni trionfalistici, anche un po' il suo stile, infatti lo spezzone che hai mandato è stato proprio questo, cioè dobbiamo cominciare. La novità qual è? La novità è anzitutto il format, cioè ci si vede con i paesi principali europei, i vertici europei sono a 27, poi 20, però ci sono anche, diciamo, paesi dell'est che non sono contrari, eccetera. Qui in questo caso sono stati i paesi interessati veramente al tema del Mediterraneo. La Germania naturalmente è interessata sempre, perché la Germania è la Germania, e diciamo così, il coinvolgimento dei paesi africani, questa è la grande novità, è questa oggettiva. La seconda, che è più una novità, stiamo sempre parlando di, come dire, novità politiche, non operative, di sostanza, diciamo così, ecco, i fondi, no? Non sono stati stanziati dei nuovi fondi, un po' perché non sono stati fatti, un po' perché non era quello la sede per poterlo fare, era appunto l'incontro politico. Diciamo una delle novità su cui tra l'altro la Francia è più interessata è che si comincerà a creare, diciamo così, delle strutture di riconoscimento dei migranti in Africa. Si parlava, diciamo, discorsi di hotspot. Degli hotspot, esatto. Ecco, ma è un termine che anche ieri poi è stato in qualche modo accantonato, sì. Proprio pubblicamente, cioè non lo usiamo più, perché non è questo il senso. Gli hotspot che erano in Europa, nei centri d'accoglienza, dice là sarebbe una cosa diversa, cioè nelle rotte, diciamo, delle migrazioni, si comincerà a creare delle strutture di riconoscimento. Ora, però, stiamo parlando di situazioni assolutamente incommensurabili rispetto alle nostre. Il Chad ha in confronto alla Libia un confine di 1200 chilometri, il Niger di più di 2000, stiamo parlando di luoghi desertici, quindi diciamo anche controllare quelle aree, non dico che è difficile, proprio impossibile, e quindi sono, come dire, un senso di prospettiva di intervento nell'area, nelle aree interessate, proprio perché ad oggi erano completamente, diciamo così, abbandonate queste rotte, si comincerà a fare, questa è la prima novità. L'altra, l'ha annunciata Macron, è che saranno usati i militari per fare queste, saranno anche utilizzati i militari per queste operazioni, perché qual è il tema lì? Ci sono le strutture umanitarie che sono l'UNHCR dell'ONU e l'organizzazione OIM, l'Organizzazione Internazionale dei Migranti, che sono queste due strutture legate all'ONU, una è proprio dell'ONU, l'altra è legata all'ONU, che si occupano di due tipi di migranti. Uno sono i rifugiati, cioè quelli che scappano da guerre, sì. Gli altri sono i cosiddetti migranti per povertà. Noi li chiamiamo economici, ma io vorrei, insomma, questo tema ci ricorda un po' il business, che francamente insomma, non è questo il tema, sono migranti che scappano da povertà endemiche. Questi sono, diciamo, le due grandi organizzazioni con cui si interagirà in maniera più incisiva, organica. Insomma, sì. Però anche lì stiamo parlando comunque di impegni di singoli paesi con dei fondi che sono in qualche modo ancora limitati. Il vertice di ieri ha messo in piedi questo tema, di andare avanti. C'è un fatto importante, la Mogherini, che è stata anche lei, insomma, inserita un po' all'ultimo su questo vertice, ha snocciolato una serie di cifre, io non ho ricordato nel pezzo che te citavi solo 3 o 4, ma insomma ne ha dette molte. L'Unione Europea stanzia tantissimo per l'Africa. Cioè, stiamo parlando ormai di cifre importanti. 20 miliardi di euro per l'Africa, un piano di investimenti privati che mobiliterà 44 miliardi di euro. Articolati come, Carlo? Cosa significa la distribuzione? Non l'ha specificato, nel senso che si parla di, mettiamo conto, di 1 miliardo destinato a un'area, che però sono pubblici, che però poi ne mobilita altri 3 privati, capito? Questo è il meccanismo, che è un po' il meccanismo del cofinanziamento, che esiste anche, diciamo, da noi, questo gioco dei fondi pubblici e privati, questo non l'ha spiegato. Però, diciamo, è evidente che l'Africa è centrale ormai nelle strategie europee. Non è solo l'immigrazione, ovviamente. No, infatti, è un paese anche che ha grosse potenzialità di crescita e nei confronti del quale c'è vasto interesse anche da parte del mondo imprenditoriale italiano. So che tu hai seguito, Carlo, anche questo aspetto, e anche lì hanno a che fare con un'altra, come dire, tra virgolette, discriminazione fra nord e sud, proprio per il diverso, la diversa ritmo di crescita che le diverse aree appunto hanno, no? Carlo. Assolutamente, sì, beh, certo, le aree sono molto diverse fra di loro, queste di cui stiamo parlando, allora, ci sono poi anche altri elementi che ieri hanno messo in luce. L'Italia è stata molto attiva perché ha funzionato questa agosto, il crollo delle, degli arrivi. Il famoso modello Libia, esatto, l'accordo preso con i sindaci libici, con il governo italiano. Quello è uno, l'altro è il controllo delle coste con la guardia costiera libica. L'Italia per prima si è presa questo incarico e carico, e quello ieri è stato ricordato come l'esempio di funzionamento. Il primo ministro Serraj della Libia ha detto questo, cioè con l'Italia sta funzionando questa intesa sul rafforzamento della guardia costiera. E il terzo è le regole di ingaggio per le organizzazioni non governative, che prima più o meno facevano un po', diciamo così, come ritenevano. E a questo punto sappiamo, no, quanto è stato criticato il codice Minniti, però ieri in questo vertice che è durato tanto, la conferenza stampa è durato tantissimo, quindi è stato anche, come dire, chiaro che di cosa si stesse parlando, l'unico paese che ha fatto qualcosa è stato l'Italia, questo va detto. Cioè, ecco, sul codice, Carlo, buongiorno, sono Mauro. Mauro Meazza. Ciao Carlo. Sul codice Minniti c'è sostanzialmente stata un'approvazione da parte degli altri stati, mi pare, di capire dai giornali, dal tuo resoconto. Sì, cioè, allora diciamo non è stato mai esplicitato in maniera così evidente, che c'è un tacito accordo. Anche il documento ne parla con garbo, diciamo così, sì, perché quando si tocca il tema ONG è un tema politico delicato, in Francia poi anche di più rispetto all'Italia. E infatti. Quindi, diciamo così, quindi c'è stato, diciamo, un riconoscimento implicito. Sì, non un riconoscimento esplicito, anche perché ricordiamo le polemiche che ci sono state in Italia con una delle più importanti organizzazioni, Medici Senza Frontiere, che poi nasce francese, quindi mi immagino anche l'imbarazzo diplomatico di tenere insieme l'approvazione per l'approccio italiano, ma nel contempo non schierarsi, non prendere una posizione troppo definita su questo punto. Sì. No, in certi momenti c'è stato anche le frange più estremiste dell'opinione pubblica, alcune frange italiane dicevano che quasi era colpa dell'ONG. Ecco, là, questo non è stato né detto né neanche così sottinteso. C'è però sullo sfondo appunto questo tema, tant'è che abbiamo saputo che verso la seconda metà di agosto le ONG hanno dichiarato che non partivano più per quelle aree, perché si era visto, beh, insomma, alcune testimonianze di come le questioni spesso avvenivano nelle acque a largo di Lampedusa significava, cioè, mettevo in luce come questo sistema forse andasse un po' rivisto. Questo lo dico così, su base di quello che leggo, io non ero lì, però diciamo questo è stata la... No, ma infatti comunque sia... ti chiedo questa cosa perché è uno dei punti forse in questo momento più in ombra, perché stiamo guardando finalmente, viene da dire, alla cooperazione tra i paesi, almeno tra i paesi più importanti, più coinvolti a livello europeo, dal punto di vista di questa cosa epocale che è il movimento di migrazione che sale dall'Africa, e in realtà non solo dall'Africa come sappiamo, però il punto delle organizzazioni non governative, il loro ruolo, quello che possono o non possono fare, possono o non possono consentire anche alle nostre autorità, beh, sappiamo benissimo che è un punto molto delicato, perché lì si vanno a toccare tante sensibilità, compreso prima di tutto ovviamente aiutare le persone che hanno bisogno, che si trovano in mare, si trovano anche poi preda di questi trafficanti di uomini, come sappiamo. Sì, quello che dicevi giustamente Mauro, questo è il tema centrale, anche lì è un tema politico, è stata ideologizzata la situazione, no? In Italia poi questo è un fatto che avviene con una facilità immediata, estrema, per cui o tutto male o tutto bene, no? Sì. Per cui non toccate le ONG, perché no, nel senso, se c'è bisogno di dirlo si dice, se non è che stiamo parlando di qualcosa di intangibile, se fanno, sicuramente fanno molto bene il loro lavoro, forse va riorganizzato alla luce di questo fenomeno che appunto è talmente grosso. Viene da dire, Carlo, forse va un po' inscritto in una politica che finalmente, sembra di capire dal vertice di ieri, si dà una dimensione sovranazionale. Ecco, questo può essere l'iniziativa, perché altrimenti, certo, lasciate da sole ad affrontare il problema, così come viene lasciata da sola la nostra guardia costiera, e beh, allora quello non si uscirà mai dall'emergenza. E poi, ripeto, qui i numeri sono epocali. Ieri giravano anche delle cifre sulla crescita demografica dei paesi africani, e ci sono dei ritmi che per noi europei, che abbiamo, come sai, dei ritmi di crescita demografica bassissimi, se non addirittura in negativo, ecco, quelli sono impressionanti. Allora, se non diamo delle opportunità a queste persone, è chiaro che si rivolgeranno, come dicevi tu prima, verso altri paesi dove le opportunità ci sono, le opportunità di non restare poveri a vita. Esatto. o diciamo pressoché poveri a vita. Insomma, una sorta di vertice della presa di coscienza, della presa di responsabilità a questo punto formale, come non si era mai visto in passato. Chissà se ha la stessa opinione rispetto a questa nostra considerazione anche l'altro nostro ospite che salutiamo, coinvolgiamo nel nostro dibattito di questa mattina, Matteo Biffoni, sindaco di Prato, ma soprattutto capo dipartimento immigrazione del PD, nominato da poco. In realtà io ho detto soprattutto capo dipartimento, non so se per lui è soprattutto sindaco di Prato, ma sicuramente ha una visione politica anche molto concreta del problema, ha esperienza di un territorio che le questioni dell'integrazione complessa le conosce bene. Sindaco Biffoni, buongiorno e grazie. Buongiorno a tutti voi. Allora, ieri un filo rosso peraltro ha legato Parigi anche a Roma, dove il ministro degli interni Minniti ha incontrato i ministri degli interni dei paesi africani coinvolti in questo tentativo di gettare le basi di un nuovo rapporto fra Europa e Africa. Lei questo filo rosso lo vede, Biffoni? Che sensazioni ha maturato a seguito e del vertice di Parigi e delle riunioni di Roma? Beh sì, premesso che ovviamente, diciamo, il soprattutto è fare il sindaco, anche perché è un lavoro totalizzante, direi, soprattutto di una grande città, insomma, chiunque faccia il sindaco capisce quello che voglio dire, è assolutamente completo. Ma io lo vedo nel senso che sto vedendo i risultati. Noi siamo gente piuttosto concreta, prova a vedere di gestire le difficoltà, le fenomenologie che accadono sui nostri territori, partendo da quelli che sono gli esiti delle scelte che si fanno. Io credo che il ministro Minniti, il lavoro è stato fatto, che ha coinvolto anche il nostro presidente dell'ANCI, Antonio De Caro. Perché lei è delegato ANCI per l'immigrazione, diciamo che è il ruolo più, forse più importante, con il quale avrei dovuto definirla questa mattina, l'ho mancato, però ho detto non questo poi non è... Non si preoccupi, non è un tema, l'importante, torniamo ai risultati. Diciamo, il lavoro che è stato fatto nel corso di questi mesi, lungo, complicato, sta iniziando a portare dei risultati veri. Quello che l'analisi che voi state facendo, devo dire molto lucida e molto puntuale, è un frutto di uno sforzo politico non banale, perché quello è stato fatto dal ministro a partire, fatemelo dire, dalla riapertura dell'ambasciata in Libia, il fatto che siamo stati i primi, la grande città, la grande nazione a riaprire la nostra ambasciata laggiù, ha comportato tutta una serie di operazioni e di interventi successivi, poi sono state la modalità di gestione dei rapporti ONG, gli interventi con i sindaci in Libia, la riorganizzazione della Guardia Costiera, un certo lavoro fatto sui territori insieme ai sindaci, insomma tutta una serie di tasselli che adesso iniziano a portare dei risultati. Tutto a posto, ci mancherebbe altro, saremmo sciocchi e ingenui se si facesse questo ragionamento, però indubbiamente si è intrapresa una strada, finalmente c'è un percorso che ha un passato, un adesso e un obiettivo definito, che anche ieri il vertice di Parigi, per quello che ne ho capito, ha condiviso, ha considerato efficace e su cui si stanno costruendo delle scelte. Certo. È per voi importante, Biffoni, comunque questo riconoscimento formale che è stato dato al Premier Gentiloni proprio per questa strategia nella gestione della relazione appunto con la Libia? Poi oggi ci sono anche delle interviste sui giornali al ministro Alfano che adesso spostano il focus dalla Libia, bisogna passare alla stabilizzazione della situazione in quell'area, coinvolgendo anche l'Egitto. Prossimi step già se ne vedono, insomma, lei cosa vede come nuove azioni immediate da condurre? Io sono orgoglioso, ma penso questo, me lo fate dire, penso possa essere patrimonio comune della politica, il fatto che il premier del nostro paese, che in questo momento è Gentiloni, ma insomma, il premier del nostro paese venga visto, venga riconosciuto, all'esito di un percorso accidentato, lo possiamo dire, sempre lineare, comunque vada come punto di riferimento, diciamo così, nelle politiche che si verranno attuate, che si stanno attuando e che verranno attuate in un'area così complessa del nostro mondo. Ho letto stamattina l'intervista del ministro Alfano, che sposta, allarga in realtà il raggio d'azione verso l'Egitto, cioè verso altre zone. Ora, io guardi, non è che ho competenze geopolitiche, anche per il mestiere, faccio così approfondite, ma capisco che oggettivamente questa è la strada, perché se noi pensiamo di poter gestire il fenomeno semplicemente sul territorio, e poi la relocation europea, tutte cose ci siamo detti tante tante volte, affrontiamo solamente un pezzo del problema. In realtà il tema vero, su cui abbiamo discusso molte volte, è capire come riusciamo a regolamentare nella maniera più efficace possibile, nel rispetto dei diritti costituzionali che il nostro paese riconosce, vorrei ricordare a tutti, lo dico così sommessamente, l'articolo 10 della nostra Costituzione prevede il diritto d'asilo, ecco, in quel tipo di rispetto come facciamo a far sì che quello che è un fenomeno epocale, mondiale, ora io non voglio ridare i numeri, sono abbastanza noiosi, ma UNHCR parla di 65 milioni di persone circa si spostano forzatamente, di 260 milioni o forse anche di più di persone che invece si stanno muovendo dai loro paesi d'origine, insomma è un fenomeno epocale straordinario, gli diamo una regolamentazione o la regolamentazione più gestibile possibile, sia dal punto di vista di chi arriva, ma anche, certo, fatemelo dire, dei territori che accolgono, perché poi teniamo presente tutti che un conto è l'immigrazione, quella che abbiamo conosciuto nel corso, un conto sono gli sbarchi e il fenomeno che stiamo affrontando da 3-4 anni a questa parte. Ecco, signor Sindaco, buongiorno. Buongiorno. Lei, essendo a Prato, come dire, di integrazione sul territorio, specialmente con la comunità cinese, lo sappiamo benissimo, ha potuto fare esperienza diretta. Allora, come va la situazione a Prato rapidamente in questo momento? Noi tra l'altro anche settimana scorsa con Silvia Pieraccini abbiamo rifatto un focus sull'integrazione con la comunità cinese, per cui è un tema veramente sempre molto interessante, perché ha degli aspetti di integrazione estremamente diversi rispetto ad altre comunità che si insediano sul territorio, che hanno altre culture, eccetera. Sindaco. Sì, sì, Silvia Pieraccini, nostra collega, è bravissima, conosce in maniera molto puntuale il fenomeno. È un fenomeno diverso, fatemelo dire. Noi siamo la comunità, percentualmente ovviamente la comunità, la terza comunità d'Europa, Londra, Parigi, fa anche un certo effetto a dirlo, diciamo, per come insediamento cittadini cinesi, 19.000 residenti regolari su 192.000 residenti complessivi in città, quindi circa il 10%, con oltre 6.000 aziende gestite da cittadini di origine cinese, insomma un fenomeno molto diverso rispetto a quello che di cui siamo abituati a parlare con integrazione in una comunità molto chiusa. Io non sono ancora soddisfatto del lavoro di relazione che c'è fra la città, fra integrazione cittadina e la presenza di una così importante comunità sul nostro territorio. C'è un grande lavoro che io ho ereditato, lo dico sinceramente, ho ereditato da tanti anni passati, e che il centrodestra governava precedentemente a noi qui a Prato ha mantenuto in maniera assolutamente lineare, di organizzazione scolastica, che noi riteniamo lo strumento più potente noi abbiamo per provare a far sì che ci sia una relazione vera, non solo e non tanto fra i bimbi, ma proprio tenendo il più possibile agganciate le famiglie a un sistema di organizzazione di relazioni che ruotano intorno alla scuola, che per noi diventa il punto di riferimento fondamentale, e poi il coinvolgimento ovviamente degli imprenditori. La comunità cinese è una comunità che a modo loro, con tutte le violazioni, i difetti che hanno evidenziato nel corso del tempo, comunque da intraprendere in maniera molto importante, stiamo cercando di coinvolgerli. Se mi chiedete se sono soddisfatto, ancora no, c'è ancora un percorso da fare importante, qualche passo è stato fatto, io lo riconosco, abbiamo accelerato molto negli ultimi anni con la mia giunta, io ho provato in tutti i modi, però ancora c'è da lavorare. La scuola, lei cita la scuola, è un problema, penso, in tutte le grandi città, si creano a un certo punto anche dei plessi, dei bacini scolastici dove ci sono delle classi in cui la minoranza è, diciamo, da genitori italiani e invece la maggioranza è di altri. Questo problema c'è stato anche a Prato? Certo, noi abbiamo lavorato nel corso del tempo proprio per evitarlo, per evitare le concentrazioni nei quartieri, in alcune zone della città dove i numeri non esplodessero. È capitato in qualche caso, però se voi pensate che l'anagrafe certifica, noi siamo la città con la percentuale di residenti stranieri nati fuori dai nostri confini, in realtà voglio dire così, più alta d'Italia, siamo intorno al 19% complessivamente parlando. Grossissimi problemi da questo punto di vista non ce l'abbiamo. Tenete presente che all'ospedale, al Santo Stefano, ospedale cittadino, il 50,6 delle mamme che partoriscono sono italiane, qui, e il resto, ovviamente, quindi il 49,4%, esatto, sono cittadine che sono nate fuori dai nostri confini, da Cina, Pakistan, Senegal, Tunisia, Marocco, Francia, Stati Uniti, Giappone, eccetera. Quindi il problema ce lo siamo posti da tempo e abbiamo lavorato per far sì che anche nell'organizzazione scolastica questo fenomeno venga attutito il più possibile. Non apro qui la riflessione sullo ius soli perché non è oggetto di discussione, ma vi rendete conto che quando ci sono alcuni esponenti dei partiti o alcuni sindaci che fanno una riflessione su questo tema, beh, voi vi rendete conto in una realtà come la mia, ma se chiedete al sindaco di Brescia, al sindaco di Padova, di Reggio Emilia o di altre città che hanno dinamiche più o meno simili, di Bergamo, vi racconterà una storia abbastanza simile. Probabilmente su questo io vi dico a chi sta facendo una discussione sui soli, venite a vedere le nostre scuole, cercate di comprendere fino in fondo il perché noi poniamo queste esigenze. E però non apro ecco fino in fondo il tema. Però no. Certo, il fatto della presenza di ragazzi che nascono stranieri, ma nascono a Prato, e che crescono qui e che frequentano le scuole dei nostri ragazzi e che vanno nelle nostre parrocchie, nelle nostre società sportive, frequentano i nostri parchi giochi, siamo sicuri che sono stranieri se noi li accompagniamo in un percorso di crescita culturale e li accompagniamo dentro le nostre scuole, un percorso mirato, formato e quindi la costruzione della relazione scolare, della relazione linguistica, della relazione culturale. Sindaco, abbiamo capito perfettamente. Devo chiudere questa parentesi molto interessante. Avremo magari modo in un'altra circostanza di argomentare queste sue considerazioni, perché tra un po' devo chiudere questo blocco, ma l'ultima domanda devo farghiela, perché oggi al Viminale c'è questo incontro tecnico con l'ANCI, quindi l'Associazione dei Comuni, non so se andrà anche lei o andrà solamente il suo presidente De Caro, in vista del provvedimento che detterà le linee guida su sgomberi ed emergenza abitativa, l'altro tema caldo del momento. Il ministro Minniti ha un chiodo fisso: coinvolgere sempre di più il territorio, gli enti locali in modo attivo per la gestione di questa emergenza. La sua ricetta qual è come avvocato, come delegato all'immigrazione del PD, come delegato ANCI all'immigrazione? Insomma, magari deve mettere tre casacche ed esprimere tre idee diverse, però probabilmente... Faccio brevissimo perché l'idea è molto chiaro. Prima, Minniti coinvolge il territorio perché è ministro intelligente, sa che senza sindaci si gestisce tutto peggio. Secondo, il rispetto delle leggi, del codice penale in particolare, è requisito fondamentale, non discutibile. Ribadiamolo, so che è una sciocchezza, ma ribadiamolo, sul rispetto delle regole e chi per chi viola. Io sono uno di quelli che, siccome lo prevede la legge, l'allontanamento del cittadino non comunitario dal nostro territorio in caso di reati particolarmente gravi è un'attività che dovrebbe essere implementata. Terzo, occupazione e sgomberi. È un problema complessivo, non solo di migranti, come è successo a Roma, che ha fatto scoppiare il caso. C'è un problema di emergenza abitativa per italiani che fanno difficoltà, italiano, per cittadini che fanno difficoltà a arrivare in fondo al mese, perdono il lavoro, abbiamo difficoltà dello shard, chi è senza tetto, abbiamo difficoltà anche appunto di chi esce dal circuito della protezione della richiesta d'asilo. Su questo, credo la riflessione che è stata impostata mi sembra corretta. Ci vuole chiarezza, ci vogliono risorse. Immobili pubblici, benissimo. Immobili confiscati alla mafia, altrettanto bene. Ragioniamo, perché il problema casa, ecco, definiamolo in questo modo, è ampio. In più, attenzione, chi occupa illegalmente un immobile esce immediatamente dalla possibilità di essere assistito con le cosiddette case popolari. Un conto è quello, un conto invece è un luogo, un dormitorio, un posto in cui appoggiare famiglie e bambini in particolari nel caso in cui ci siano sgombri massicci come è successo a Roma. E questo funziona solo, lo ridico perché questo riparte almeno dall'inizio, se c'è una relazione strettissima in questi casi tra la prefettura e quindi le forze dell'ordine, il terzo settore e le amministrazioni comunali. Altrimenti rischiamo la confusione, il caos e non dare risposte soprattutto alle fragilità che sono rappresentate dai bimbi o da chi ha gli anziani, chi ha difficoltà. Infatti, le marginalità. Grazie, però il lavoro sindaco. È a 360 gradi, sì, ma vale necessariamente. Per tutti. E il tema all'ordine del giorno è sempre quello, risorse, come ha detto il sindaco Biffoni, che prevedo salutiamo. Prevedo una lunga lista di richieste, esatto, per il ministro Padoan nella legge di bilancio o di stabilità. Tutti o finanziaria che si voglia. Tutti a tirargli la famosa giacchetta, come dicevi prima. Grazie al sindaco Biffoni, delegato ANCI per l'immigrazione, delegato anche su questo argomento per il PD. Caro Mauro, io adesso devo andare in pausa, la lascio lascerò lanciare a te perché ti piace, quindi scalda i motori. L'ultimo tema che devo affrontare, cambiamo radicalmente binario direi rispetto ai temi che abbiamo affrontato fino ad ora, alleggeriamo il nostro programma, parliamo di un tema che ti piace perché è intrattenimento, spettacolo, musica, per cui io te lo dico, se tu vuoi rimanere sei il benvenuto, se devi andare a fare qualche riunione ti lasciamo andare perché c'è un giornale anche da portare avanti, fai tu. Però intanto ci penso nel mentre che potete ascoltare, vita, la esatto. pubblicità. A tra poco. Ma cos'è quest'estate? Un mappazzone questo. Americano. No, un mappazzone. Perché americani sono tutti mappazzoni. No, non è vero. Non è come vero. No, chef? No, lei è americano. Non li ho messi in ordine di importanza, ma l'ordine era del tutto casuale e ho lasciata la creatività dei nostri autori e l'elaborazione di questa sigla introduttiva del nostro ultimo argomento di oggi, per affrontare il quale ho chiesto naturalmente la consulenza della massima autorità in materia per Radio 24, che è quella di Marta Cagnola. No, ma non per Radio 24, in generale. Mondiale. Infatti io direi a livello perlomeno europeo. Buongiorno, ma sì, Marta. Dai, non allarghiamoci troppo. Rimaniamo nel continente. Siamo reduci dal vertice europeo di Parigi e quindi rimaniamo, insomma, a questi confini assolutamente rilevanti. Parliamo di reality show, ma anche di talent show, perché qua bisogna fare una distinzione anche utilizzando i termini. Marta, si riapre la grande stagione questa settimana con uno dei miei preferiti, che è Bake Off Italia. Ma sai anche cucinarli dolci o ti piace solo guardarli? Ma figuriamoci, ma no, mi piace guardare, prendo anche nota, no, ma faccio delle cose assurde. Fotografo persino le fotografie e le ricette che sono poi riassunte accanto. Non ci posso credere. Sì, dopodiché rimane tutto lì sul telefono perché non faccio niente. Non ci posso credere, guarda che la fotografia è tanto. Ma perché abbiamo dei lavori che impegnano molto. Quando avrò più tempo, quando andrò fra 30 anni in pensione, magari tutta questa documentazione che ho messo da parte. Ma... Allora, raccontaci un po' cosa c'è in serbo in questa stagione televisiva che si sta aprendo per gli appassionati del genere. Allora, intanto per gli appassionati del genere, appunto, Bake Off sta per riprendere, 1 settembre, una nuova stagione. Chi abita nelle grandi città vede da settimane poi vede dei grandi manifesti, ad esempio a Milano in metropolitana dei manifesti molto divertenti. Riprende a brevissimo il Grande Fratello VIP e questi sono i primi due, e poi anche Pechino Express, insomma sono i primi format che stanno arrivando. Ma partono sempre prima, mi sbaglio? Ma un po' guarda, come la stagione, realtà, come il campionato di calcio. Allora, in realtà molti si sono invece si lamentano che l'estate sia molto lunga. Allora, ogni tanto diamo delle spiegazioni tecniche. Nella televisione esiste il cosiddetto periodo di garanzia, non è per niente poetico. È quello in cui vengono conteggiati gli ascolti ai fini della raccolta pubblicitaria. Quindi fare un programma di spicco che non cada in quel periodo non vale la pena, perché se anche fa degli ascolti altissimi non viene conteggiato ai fini della raccolta pubblicitaria. Beh, quindi capita anche a noi in radio, diciamo, questa. No, certo, certo. E il periodo di garanzia in TV sta per iniziare. Quindi quando inizia il periodo di garanzia in TV partono le nuove trasmissioni. Perché mettiamo insieme talent show e reality show in questo caso? Poi ci sono tantissimi sottogeneri. Perché questi che abbiamo citato sono tutti format che vengono acquistati dall'estero. In tanti dicono, ah, ma come, paghiamo tanti autori nella televisione italiana e abbiamo bisogno di comprare dei format dall'estero? Allora, in realtà era un format persino Lascio Raddoppia, che era la domanda da 64.000 dollari, mi ricordo quant'era. Anche se so che il format dei format... Questo è un cavallo di battaglia del mio professore della tesi di laurea, quindi insomma parlavo di qualche annetto fa, il professor Giorgio Simonelli, che ha collaborato anche tanto con Radio 24, il format dei format Portobello in Italia, che conteneva già tantissime idee che poi sono state sviluppate da tantissime trasmissioni in Italia. Però diciamo che... Il format si compra, Però poi va adattato, ci vogliono anche le creatività locali. Non sveliamo subito il segreto sull'altra grande creatività locale che abbiamo disturbato questa mattina, solamente perché per due secondi voglio coinvolgere i nostri ascoltatori in questo simpatico dibattito di alleggerimento del finale del programma. L'800 24 00 24, voglio sapere qual è il vostro o reality o talent show preferito, insomma siete degli appassionati. C'è poi anche tutto il tema dello spoiler, no? Perché qualche volta è capitato anche in passato che improvvisamente a metà stagione qualcuno sapesse già come andasse a finire. Ci sono anche dei fiori di spot, ma poi dei drammi che sono successi, ecco, non so se ti ricordi quando venne svelato per sbaglio il vincitore di MasterChef, e allora da allora la puntata finale, quella con il vincitore, pare che non venga nemmeno girata fino alla fine. Le consegne del segreto sono molto stringenti. Senti Marta, qual è in assoluto il preferito dagli italiani? Almeno esiste una statistica di questo tipo, oppure ci sono le fazioni tra la cucina, l'intrattenimento? Guarda, se andiamo a vedere a numeri, dobbiamo in realtà fare una considerazione molto semplice. Non si possono paragonare come ordine di grandezza gli ascolti che può fare Sky, per essere molto semplici, cioè la televisione a pagamento, con la televisione generalista. Quindi bisogna fare una serie di considerazioni, prenderli un po' in scala. Detto questo, un format come X Factor, che ha necessariamente degli ascolti più bassi rispetto al Grande Fratello, ma proprio perché sono diversi gli ordini di grandezza, ha un appeal molto forte sui mezzi di comunicazione tradizionali in rete. E nel mondo discografico, immagino anche. Certo, poi qui si apre ancora un altro capitolo di come questi talent abbiano anche cambiato. Introduco il tema discografico, perché qua abbiamo anche un musicista, non solo un caporedattore del Sole 24 Ore, e quindi non so se hai qualche argomentazione. Vorrei anche ricordare che io ho partecipato. Hai cantato? Sono una voce del... Diciamo che nel nostro CD... Che... Ma questo non lo sapevo, ma me lo dite così a sorpresa. Lo diremo poi fuori onda, non sono cose che il pubblico deve sapere. Sai che io adesso inizio un programma con lui. Secondo te a fine palinsesto mi guadagnerò anche l'occasione... Ci stavamo riflettendo prima. Se volete i cori io arrivo. No, io sono molto interessato invece a tutto questo che ci stai dicendo, Marta, perché devo confessare, e mi sento un po' a disagio, di vederne pochissimi di questi talent. Perché allora, tu stai sempre qui dentro, diciamo. Questo è abbastanza vero, ma mi chiedo, potrebbe essere un disagio, un ammalanno che devo far curare? No, ma per quello mi interessava capire magari certi format, tipo, se non sbaglio il genere, Temptation Island, che pure è andato molto forte, ma sono molto circoscritti, cioè durano molto Island meno. Temptation Island è un esperimento molto interessante, perché è stata una trasmissione di grandissimo successo fatta d'estate da Canale 5. È un esperimento interessante proprio perché è in un periodo dell'anno assolutamente inconsueto. Lì c'è uno zampino. Fuori o dentro il periodo di garanzia? Fuori. C'è uno zampino importante, che è quello di Maria De Filippi. E poi tutti questi personaggi rientrano poi in altri ruoli, come il tronista, l'esperto ad A Uomini e Donne, il concorrente del Grande Fratello. Ci sono poi i residui degli altri reality, vorremmo chiamarli. No, anzi, ormai il concorrente dei reality può travasarsi dall'uno all'altro, dal Grande Fratello all'Isola dei Famosi, fare più volte l'Isola dei Famosi. È successo ad esempio a Manuel Casella, che l'ha fatta due volte, oppure passare da concorrente a commentatore. Possono succedere mille cose. Che è quello di Pechino Express, ad esempio, quello che è successo a Pechino Express. Allora vedi che li vedi? Ma infatti mi sembra è uno dei pochissimi che vedo. Temptation Island, devo dire, me l'hanno inflitto in casa, a casa le donne di casa. Temptation Island è la definizione del guilty pleasure, cioè del piacere colpevole. Quello che tu dici, non lo guarderò mai. E poi sei lì e dici, e poi sta settimana, e poi anche quella prossima. Allora, 800 24 00 24, dai, in questi ultimi 10 minuti di tempo raccontateci qual è il vostro preferito, il vostro guilty pleasure, confessatelo senza problemi. Qua il confessionale è aperto, quindi continuiamo ad utilizzare termini assolutamente pertinenti con la materia. Detto ciò, ti vedo che fremi. Allora, prima di presentare il prossimo ospite, che ha un curriculum che neanche te lo sto a dire, lungo 18 pagine, per cui Marta deve aiutarci. Lui è il top del top, è il top, come tutti gli ospiti che abbiamo sempre noi qua. Vai. E tocca a me, tocca è il mio te, momento. È il tuo allora, momento, se la vuoi io, cantare anche no, sei no, no, no, io mi congedo, vi lascio al vostro ospite più importante e come d'abitudine, tutto ciò premesso, cara Marta, cara Deborah, cari ascoltatori, traffico! Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta... Ma cos'è quest'estate? È anche l'estate nella quale parliamo della ripartenza di una grande stagione televisiva, quella che si concentra in particolar modo sui reality show e talent show, mondi ben diversi da separare rigorosamente. Marta, io ti dico che tra le novità che mi piacciono di più è il ritorno di Manuel Agnelli tra i giudici di X Factor. Ah, so che a te piace molto. Sì, sì, io sono anche curiosa. Per me ha un carisma, di... un fascino pazzesco. Sono curiosa di capire cosa farà Levante. Io devo dirti... Ma mi dici chi è Levante? Scusami, vedi, in tutto questo vedi, la mia vedi, ignoranza vedi. La ammetto. Ma allora... Ionchi la conosco, Fedez lo stesso. Cioè Paolo Corleone in regia non è contento di questa tua affermazione. Beh, non è che si possa. Adesso gli chiedo io qualcosa sui mutui, l'Euribor, esatto, il fisco e vediamo se lui possibile. Sta... Allora, Levante è una bravissima cantante, diciamo del mondo indie, anche se con un seguito un po' più ampio, che aveva avuto un'estate di grandissimo successo con quest'Alfonso, poi un paio di dischi di medio successo, eppure lei sicuramente più brava del consenso popolare che raccoglieva. A un certo punto Sky ha avuto l'intuizione di affidarle questo ruolo televisivo. Io l'aspetto al varco. Certo, qua sotto esame, partono gli esami pure per sì, lei. Sì. Senti, me lo vuoi presentare tu il signore che è collegato telefonicamente con noi? Mi alzo in piedi perché lui è... Standing ovation. Ma lui lo sa quanto io sia una sua fan, perché allora... Ha un curriculum, dicevi tu, lunghissimo, sì. È un bravissimo, bravissimo autore italiano. È anche un bravissimo scrittore, perché ha scritto anche un giallo che a me è piaciuto particolarmente. Le ragazze della nostra generazione lo hanno amato moltissimo, perché fin da ragazzo lui faceva l'autore... Possiamo dirlo, lui è la grande mente dietro... tanti successi di Gianni Boncompagni come Non è la Rai, ma soprattutto lui ha scritto anche le canzoni di Non è la Rai, quindi capite che talento poliedrico, multiforme. Io vabbè, se hai capito già che sono una grande, grandissima fan di... Lo presento? Vai! Peppi Nocera, buongiorno Peppi! Sembra un coccodrillo. Ma no, dai, non esagerare, ma lo sai quanto io sia una tua fan? È colpa tua, esagerare. Potevi darti una regolata nel fare tutto quello cose. Che hai fatto, potevi fare meno cose. Scusa. Vi ho sentito, ho sentito tutto quello che avete detto. Ecco, come lo coinvolgiamo? Però aspetta Peppi, come lo coinvolgiamo nel tema di stamattina, allora, nel mondo reality talent? Allora, lui, io che cosa intanto, ci fa? Come sentivi, come hai sentito Peppi? Io l'ho detto, allora si comprano i format, ma mica è finito lì, anche perché uno dice vabbè certo fai l'autore, hai comprato il format. No, infatti io per esempio Bake Off che ho fatto fino a questa ultima edizione che non ho fatto perché nel frattempo ho cambiato un po' lavoro perché sono diventato consulente artistico per Sky e quindi Bake Off per esempio non lo faccio più e me ne rammarico perché è veramente un bel programma. Bake Off e X Factor Italia, cioè Bake Off Italia e X Factor Italia vengono fatti vedere nelle convention noiosissime sui formati delle rispettive case di produzione come esempio di come migliorare il formato originale, perché in effetti che se ne dica che in Italia non ci sono idee, che è anche vero, ma è anche una questione un po' del non rischio da parte degli editori, no? Perché è chiaro che se tu hai una letteratura di successo, parlo di ascolti in questo caso, nel senso che se tu sai che quel dato programma in 22 paesi è andato molto bene, sei molto più propenso a acquistarne i diritti rispetto a un'idea originale, che è un po' quello che è successo negli ultimi 15 anni, dove per esempio mi ricordo dei periodi Mediaset degli anni 90 si tentava più di, c'erano più programmi originali, mi ricordo appunto che abbiamo fatto Matricole, Meteore, Brutta Natroccolo, non vedo l'ora che tornino quelle cose là, che erano perché si rischiava un po' di più, c'era anche più agio per rischiare. Però nel frattempo tu puoi avere il più bel formato del mondo, però se lo fai male viene brutto. Ma cosa ti danno chiavi in mano del format, esatto, internazionale? No, e quanto puoi toccare? Linee, condizioni linee, contrattuali, paletti, ecco, diciamo. Quello attiene al mettersi di fronte e chiudere dentro una stanza, in genere il controllore internazionale che viene a controllare e anche passeggiare delle cose. Banalmente X Factor in Inghilterra è sempre stato fatto in due puntate, no? C'era il venerdì o il sabato, insomma, i risultati erano nel secondo. Quindi, per esempio, che vi posso dire, quella roba del tilt è una nostra invenzione, perché per dare più suspense? No, perché non c'è, perché dovevamo farlo in una puntata sola, come è giusto. Il tema dell'adattamento è complicato, diciamo che ci vuole mestiere, diciamo che grazie al cielo in Italia ci sono tantissimi bravi autori che si mettono là, guardano il programma, lo modellano a gusto un po' personale, ma un po' al gusto e allo zeitgeist locale, e in genere tante volte non funziona, ma insomma. Bake Off è sempre iniziato i primi di settembre, ragazzi, ve lo dico perché l'ho fatto dalla prima edizione, e poi è vero il periodo di garanzia, ma è vero anche che programmi come Bake Off, come Masterchef, o anche tutte le fasi iniziali di casting di X Factor devono essere registrati e lavorati, quindi... Quindi l'estate, esatto. Quindi si registra in primavera, diciamo, in estate, si monta d'estate e poi si emette a settembre. Ecco. Peppi, hai parlato di casting, adesso non si può fare una formula matematica, ma quanto conta il format e quanto conta invece il casting azzeccato? E nel quanto successo impegna di un il casting conta anche l'autore del programma? Te li devi vedere tutti tu, Peppi? No, ci sono... No. Io, per esempio, quest'anno erano 2 anni di casting, facevo solamente il serale, quest'anno, sempre da supervisore, ho fatto anche casting, che è una parte molto faticosa, ma al tempo stesso insomma ti dà subito il clima e capisci già se c'hai bella roba là. C'è una variabile che è il culo, ragazze, cioè, sì, la buona perché sorte perché ci sono appunto certe volte che non ti arriva nessuno, oppure diciamo banalmente il cantante capita nel gabbiotto sbagliato, nel senso che è capitato, per carità, ma non solo a noi, cioè capita nei talent che magari non riesce a capire in quel momento, ma banalmente un bravissimo cantante può avere un attimo di ansia da prestazione in quei pochi secondi, minuti che c'ha di fronte allo scrutinatore e canta banalmente male e tu non capisci che c'hai di fronte magari una pop star, ecco. Senti, quest'anno sono molto bravi, voglio dire. Almeno diamo anche questo stimolo ai nostri ascoltatori, appunto, a seguirli ancora di più nel caso avessero bisogno di un po' di pubblico, ma non mi risulta che questi format siano in crisi in Italia. Peppi, come si sta trasformando il mondo della televisione? Non è che adesso comunque rischiamo un po' di andare verso il tema contrario, la deriva, il sovraffollamento di questi format, ci sarà un pochino una marcia indietro, una selezione, non so, che cosa vedi tu in prospettiva? Io in prospettiva mi aspetto un next big thing. Qualcosa che esploderà prima o poi? Sì, perché diciamo che è un po' la stessa cosa da un po' di anni, cioè perché è declinata in varie cose, però per ora c'è ancora, voglio dire, si fanno ancora perché ancora hanno successo, no? Perché poi c'è tutto, sono tutti magari tutti uguali, ma che con caratteristiche diverse. Pensiamo a Bake Off e Masterchef, no? Che sono due cooking show, uno è la professionalità, anche la severità e la gara viste proprio all'estremo. Adesso c'è anche Chopped, come si chiama, non so Chopped, se lo... certo. Che cosa c'è? Chat, sono i nuovi format. È un'altra format gara di... culinaria, sì, però sì, di... sì. Mettono sotto forte pressione tre giudici super forti, insomma tre chef con grandi stelle e mettono sotto pressione praticamente su Food Network, esattamente, sì, tre ingredienti assolutamente stravaganti a dei cuochi che devono cucinare in maniera creativa, sempre cucina comunque, sempre quello. E per concludere dico, invece c'è il suo contrario, esatto contrario, che è Bake Off, che è il conforto del dolce in un'atmosfera bucolica, no, cioè diciamo che affronta i target di riferimento sono molto precisi e quindi hanno come dire riscontro oggettivo, ecco. E insomma, per darci dei prodotti avvincenti ci sono delle squadre che lavorano assolutamente, ecco, infatti spesso gli ascoltatori scrivono ma parlate di temi leggeri, no? Sì, altro che no. Guardate, a conoscerlo questo sotto, mondo molto, di tutto rispetto. Sì, sì. E vi è servito anche per questo motivo sapere che cos'è il periodo di garanzia famoso. Marta, grazie per essere stata con noi, grazie anche a te, Peppino Cera, in bocca al lupo per tutte le tue avventure che sono sempre tante. Noi ci fermiamo, termina qua Ma che cos'è quest'estate, puntata del martedì, ma torniamo domattina, non preoccupatevi, buona giornata a tutti.